voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Combitras, l'impresa che trasporta le eccellenze agroalimentari in giro per l'Europa, di Andrea Ferro. Ogni giorno e ogni notte migliaia e migliaia di tir macinano chilometri lungo strade e autostrade per garantire gli approvvigionamenti, nelle fabbriche, nei supermercati, fino alle nostre case. È un moto perpetuo che richiede energie, competenze, organizzazione e che si orienta verso ogni rotta possibile. Dalle città ai paesi più sperduti, dai porti ai centri produttivi. Questo è il lavoro delle imprese di autotrasporto. In Italia sono quasi 100.000 su e giù per la penisola, imprese piccole e imprese molto grandi. Tutte insieme compongono un settore strategico per la nostra economia. Mai come in questi tempi, le chance di sviluppo di un paese dipendono fortemente dall'efficienza del suo sistema logistico. E all'interno di questo sistema, l'autotrasporto ha un ruolo cruciale. Oggi raccontiamo la storia di una di queste imprese. Si chiama Combitras. Le sue sedi sono a Cesena e a Bologna. Ha preso forma ormai 25 anni fa, seguendo un motto e una filosofia. L'unione fa la forza, cioè per vincere la scommessa occorre miscelare esperienze, passioni e professionalità. Massimo Bagnoli è uno dei fondatori e amministratori di Combitras. Nasce sulle esperienze di un'altra impresa che vedevano me come amministratore e altri 9 soci che prima erano miei dipendenti nell'impresa precedente, oggi sono diventati soci di questa impresa qui. Era il 1 giugno del 1992 quando abbiamo alzato le serrande per la prima volta e anche cercando di fare qualcosa di innovativo. Siamo partiti come corriere, come operatore logistico già a quei tempi, però l'innovazione stava nel emulare le tempistiche dei courier, quindi con un hub notturno aperto per il collettame pesante, e lo scambio notturno delle merci e la costituzione di un gruppo che oggi poi si è concretizzata con la nascita di un'ulteriore azienda che è il CDS, che ha una settantina di aziende affiliate, che compie servizi di collettame in tutta Italia e in tutta Europa. E questo, insomma, ci rende particolarmente orgogliosi, perché il 1992, non dimentichiamocelo, è stato già un anno di crisi, perché nel 94 abbiamo visto la dipartita di aziende importanti come le aziende venete della Domenichelli, della Piccin, della Maritan Tagnin, della Maritan Borgato. Sono stati veramente momenti molto, molto complicati. In 25 anni l'onda delle trasformazioni si è infranta anche sul mondo dell'autotrasporto e su quello dei corrieri in particolare. I confini sono saltati, il mercato è diventato aperto, ha spezzato antichi equilibri e imposto nuove strategie operative, commerciali e contrattuali. A partire dalla formula del cosiddetto Franco Italia, cioè le spese sono a carico del committente fin dalla partenza. Nel 1992 non c'era nemmeno la concezione del Franco Italia, c'erano i corrieri specialistici, quindi c'erano le aziende che, non so, lavoravano su 2 regioni. Potrei pensare a Stracciari che faceva Lombardia e Emilia Romagna, Mazzoni che faceva Toscana ed Emilia Romagna, la Tommaso Borghi che faceva Puglia, Calabria e Basilicata. Cioè, oggi non esiste più la specializzazione regionale. Oggi esiste il Franco Italia, ma che già nacque a ridosso degli anni 90, degli anni 90, e con le prime grosse aziende che sono nate ovviamente a Milano, che è sempre stata comunque la capofila un po' dell'innovazione. Quindi nacque Milan Docs, che fu il primo Franco Italia, poi l'ASD, poi ecco. Oggi le aziende cosa hanno pensato di fare? Le aziende regionali non ce ne sono più, hanno cercato di unirsi e scambiarsi servizi in dei network. Oggi ci sono dei pallet network importanti, 4 in Italia, ci sono degli altri network del collettame, uno è il gruppo CDS di quello che vi ho appena descritto, e quindi è l'associazionismo che ha molto preso piede. Quindi l'azienda piccola ha ben pensato di fare sinergie con altre aziende piccole per non soccombere alla grossa impresa. Quando dicono che grande è bello e piccolo no, noi diciamo che è anche bello piccolo se c'è una buona regia. In un mondo che non dorme mai non possono essere concesse pause, tanto più nella logistica. La sfida è aperta e si ingaggia tenendo in mano un cronometro. Vince chi fa prima, chi sa organizzare al secondo ogni tipo di trasporto, chi sa correre contro il tempo e si ferma solo per caricare e scaricare. Massimo Bagnoli, amministratore di Combitras, racconta e cadenza il ritmo al quale oggi è sottoposta un'impresa di autotrasporto. I tempi si sono tutti accorciati, ma si sono accorciati perché è il mercato che ci chiede questo. Oggi c'è un mercato sotto stress, si pensa che appena si è prodotto una cosa deve essere subito negli scaffali della grande distribuzione perché si deve consumare immediatamente per riordinarla. Ecco, questo qui cosa ha portato? Ha portato appunto ai lavori notturni, allo scambio delle merci notturne, ad avere delle linee dirette, quindi un accorciamento dei tempi di consegna importante. Mentre quando siamo nati avere il servizio 48-72 ore era un ottimo servizio, oggi il servizio ottimo 48-72 ore è per le località più disagiate, perché il servizio deve essere 24 ore, addirittura delle volte sono A per A. E questo credo che si sia potuto avere questo miglioramento dei tempi di consegna anche per la grande professionalità. Quindi per l'utente infatti gli consente intanto di ridurre le scorte, perché si può produrre giorno per giorno, quindi mentre una volta avevano i grandi magazzini, oggi i grandi magazzini non ci sono più, tant'è che sono anche nati magazzini di terzi. Oggi chi deve gestire qualche scorta preferisce farlo a casa di un altro, non a casa sua, monetizza i suoi impianti, i suoi immobili affittandoli, facendogli dell'altro, ma cercando nell'operatore logistico uno che ha tutto campo, che si deve preoccupare solamente di produrre e di vendere. Per il resto la gestione del magazzino, la gestione delle scorte, la gestione dei flussi, la gestione delle consegne è demandato ad un professionista. In un mercato già effervescente, lo sviluppo irrefrenabile dell'e-commerce ha ulteriormente sparigliato le carte e raffigurato scenari diversi. Una crescita tumultuosa a doppia cifra che ha imposto nuove esigenze a carico della catena logistica e quindi dei suoi operatori. Oggi i produttori possono aprire un negozio sul mondo semplicemente da dietro un PC, quindi anche questo lo si può fare se si ha un operatore logistico in grado di gestire queste cose, il packaging che ha comunque delle particolarità, perché sappiamo che le urgenze devono essere gestite con degli automatismi che possono essere dei nastri trasportatori, che quindi non è che accarezzino le merci, hanno bisogno di avere imballi adeguati. Però questo anche un piccolo artigiano magari che avrebbe fatto fatica a vendere ovunque, oggi può vendere in tutto il mondo. Noi siamo inseriti anche in questo settore. Anche in questo settore si cercano delle sinergie tra aziende medio-piccole, e tant'è che sta nascendo un consorzio che si chiama Dotlog, che aiuta le aziende più piccole a non essere triturate magari nei grandi complessi di nomi, bene non farne, però riuscire ad essere presenti nel mondo dell'online con il loro marchio, con il loro brand, e riuscire a dare a costi corretti il servizio che danno anche le aziende più importanti. Nell'apertura di un mercato senza frontiere, le imprese di autotrasporto come la Combitras oggi sono costrette a competere tra gli squilibri che inquinano il sistema. Sotto accusa, le aziende dell'Est che, grazie a costi operativi sensibilmente inferiori, possono praticare tariffe stracciate. Ma non sono l'unico fattore che distorce il mercato. È vero che i trasporti dell'Est hanno un pochettino sconvolto quello che è il sistema tariffario, anche eludendo le norme di cabotaggio. Però è anche vero che se andiamo a vedere che queste aziende che vengono dall'Est spesso sono delle aziende italiane estrovestite. E quindi è un problema che forse ce lo siamo creato noi, come spesso succede nel mondo dell'autotrasporto. Come pure bisognerebbe anche guardare se è vero che tutta la concorrenza proviene dalle aziende dell'Est. Noi abbiamo anche tantissimi irregolari. Noi col fatto che ci sia una cronica mancanza di controlli, ma anche di competenze per i controlli, ci troviamo che magari ci sono degli mezzi in conto proprio che fanno distribuzione conto terzi, magari ci troviamo che è gente che nemmeno è iscritta all'albo. A noi è capitato, visto che ho anche un ruolo in una istituzionale, in una federazione, che un vettore che operava da 25 anni per la consegna di elettrodomestici per la grande distribuzione, dopo 25 anni ci si è venuto a chiedere che cos'era l'iscrizione all'albo degli autotrasporti. Questo per 25 anni aveva trasportato abusivamente dei prodotti, e questo non veniva dall'Est. Tra le sue sedi di Cesena e Bologna, Combitras non può che incardinare l'attività sulle eccellenze tipiche del territorio, cioè del distretto agroalimentare, che alimenta un pezzo d'Italia ed esporta ovunque. Aziende alimentari e aziende vitivinicole sono quelle che praticamente sono l'85% della merce che noi trasportiamo. Ci teniamo ovviamente molto, perché è un settore inesauribile. Ci occupiamo solo di merce secca, quindi non facciamo trasporto frigorifero, abbiamo dei colleghi che lo fanno, abbiamo fatto la scelta comunque di occuparci di logistica distributiva, quindi noi siamo specializzati principalmente nell'ultimo miglio, che è quello più complicato, che è quello più difficile, però anche quello a maggior valore aggiunto, quindi noi penso che proseguiremo su questa strada. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.